24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Data l'irrilevanza, io credo che in Germania nessuno si sarebbe dimesso per una cosa del genere. Ecco, e pertanto non intendo farlo qui. Ma ministra Josefa Idem, ma come, data l'irrilevanza della cosa, in Germania nessuno si sarebbe dimesso per questa vicenda di ICI, IMU, case, palestre? Ma in Germania forse non sarebbe neanche arrivata la conferenza stampa a un ministro della Repubblica. E infatti oggi pare proprio il giorno della resa dei conti per il ministro Josefa Idem, che vedrà Letta. Comunque, buongiorno cari ascoltatori, siamo qui, riapre una settimana di 24 mattino, sono le 6:33 minuti, è tornata a quest'ora anche Miriam Lucchetti, evento clamoroso in redazione. C'è il nostro alpino Peter Bescapè, che ormai ci dorme qua sugli zerbini della radio. E che dire, siamo tutti pronti? Io sono Alessandro Milan. Sì, non c'è la contraffine, sì. Milan, sei proprio un coglione. Sì, ma è possibile che sei un pirla così, lavori in radio? Il mondo va così. È possibile. Vabbè, pazienza. Ce ne facciamo una ragione? Non lo so, vediamo un po' di farci la ragione. Allora, oggi apre il nostro Parlamento per quella che è l'ottava settimana decisiva per la riforma elettorale. E anche l'ottava. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Trozza de col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Vabbè, è anche l'ottava settimana decisiva per l'abolizione delle province. Apre oggi e finirà venerdì, chissà, magari sono le settimane decisive per queste due cose: riforma elettorale e abolizione province. Allora, voglio salutare Silvia Brasca, buongiorno, benvenuta del TG della 7. Eccoci. Buongiorno. È la settimana decisiva per qualcosa per te? Succede qualcosa questa settimana? No, oggi è la giornata decisiva per qualcun altro, secondo me, lo sapremo. Vabbè. E comunque no, aggiungo anche le primarie del PD, le regole per le primarie. Ah, c'è la settimana decisiva per stabilire le regole delle primarie del PD, effettivamente. E allora attenzione Silvia, ecco, rullino i tamburi, devono rullare i tamburi. Perché arriva, torna con noi... Chi? Alberto Forchielli, buongiorno! Sì, ma questa è una gabbanassa, ma mi stai facendo? Cos'è questa una? Gabbanassa! Cos'è? Mamma mia! Papolone! Vabbè. Alberto Forchielli, presidente! Quel rullo di tamburi lì mi hai già messo sulla difensiva! No, presidente dell'Osservatorio Asia, dove ti trovi, Forchielli? Sono a Hong Kong. Eh beh, giustamente. Oh, Hong Kong! Ma come? Sì. Ma c'è, sì. C'è proprio, hai perso un attimo con Snowden lì, è arrivato a Hong Kong, è fuggito da Hong Kong, no? Snowden, la Snowden. L'hanno portato in Russia. Ah sì, con l'approvazione dei cinesi, vabbè. Non è che poi avesse da dire cose, cioè, tutte cose che si sapevano già da 10-15 anni. Ho capito, però le ha dette, adesso sono cavoli suoi. Ah, sì, no ragazzi, ma se le chiedete a Romano Prodi, lui è rimasto terrorizzato dallo spionaggio americano. Lui non ha neanche il coraggio di ricevere gli auguri del compleanno. È stato spiato. Perché loro hanno, ma da anni, ormai 10-15 anni, hanno la modulazione della voce. E quando anche parli, su qualunque telefono tu parli, loro ti sentono la modulazione della voce, per cui non c'è salvezza. Niente. Silvia Brasca, bisogna cambiare un attimo, cioè tu quando telefoni come parli, no? E poi lo usano, e poi anche gli americani lo usano per ragioni commerciali, capito. Per concessioni petrolifere, per... insomma. Siamo fottuti, insomma, questo è Silvia, no. Puoi fare qualsiasi cosa, sono i segreti Pulcinella, quelli di Snowden, capito? I segreti di Pulcinella, intanto. Però mi sembra che Prodi sia già anche terrorizzato dalla politica italiana, no? Sì, oggi il Corriere dice basta. No, Forchielli, oggi Prodi ha smesso di vomitare, è come uno che ha fatto un viaggio in barca, capito? Ormai è già arrivato. Ha vomitato il vomitabile. Ha vomitato tutto. Oggi però scrive al Corriere della Sera, Forchielli, scrive una lettera dicendo "My game is over". Basta, non sì, sostenere. Non ne voglio più sapere. Basta. In giro. Non ne voleva sapere neanche prima, lasciatelo perdere. Poi. Allora, prima della del giorno decisivo per qualcuno, a parte non so, questa vicenda di Josefa Idem, dobbiamo dedicare quanto tempo a questa cosa qua? Oggi tutti i giornali dicono che è il giorno che vede Letta e si cure le dimissioni. Silvia Brasca, fai un pronostico, si dimette oggi per questa vicenda? Secondo me sì. Si dimette. Penso di sì, anche perché, come si dice a Milano o da altre parti, fece il tacon del buso, quella conferenza stampa è stata anche sì, quella un passo falso. Clamorosa. Con l'avvocato non rispondi, quindi. Con l'avvocato, Forchielli, una bella si è presentata la conferenza stampa IVA IMU, no, perché tu sei già proiettato alle questioni internazionali, mentre qua si parla di Josefa Idem e la sua casa palestra con l'ICI ed IMU, si è presentata con l'avvocato a fianco in conferenza stampa, non si è mai visto un ministro della Repubblica così. È arrivata questa notizia a Hong Kong, Forchielli? Ma figurati, è una roba. Il problema è che le notizie internazionali non arrivano sulla stampa italiana, perché ormai la stampa italiana non c'ha gli occhi per piangere, per cui non c'è più gli inviati, i corrispondenti, e per cui vi dovete ciucciare tutta quella roba lì politica, capito? Ma l'Italia si sta richiudendo su se stessa. Ricciucciandosi tutte le robe che sono nel raggio di 300 km. Comunque, Josefa Idem è il momento, la cosa del giorno. Sì, il fatto che i tassi di interesse in Cina siano andati il 28%, capito? Il fatto che Li Keqiang abbia detto alla Germania che la Germania è il punto di riferimento per la Cina in Europa, il fatto che Obama sia andato in Germania a Berlino, non abbia cagato nessun altro, nessuno dei due sia andato a Bruxelles, quello non importa niente a nessuno. Siamo un po' così, ci guardiamo l'ombelico, no? Sì, però per forza non abbiamo i soldi per guardare fuori, sono tutti i giornali falliti. Silvia, di qualcosa, fatti mandare inviata da qualche parte, a Hong Kong, vai da Forchielli, cioè fai qualche report. No, ma non c'hai i soldi, perché è meravigliosa, ed è davvero, ci andrei domani. Forchielli, devo dire, c'è anche l'online, dovrebbe metterci, insomma, ci permette di avere anche uno sguardo sul mondo leggendo i giornali, certo che bisogna annusare l'aria, è che penso che davvero, se oggi leggiamo, ripeto anche ancora, Lesina Giavazzi, i problemi in questo momento sono qua. Per carità, e non sto difendendo nessuno, l'opacità della nostra stampa, del nostro giornalismo sull'estero, sull'apertura, sempre c'è tutta. In questo momento purtroppo penso che ci siamo richiusi su dei problemi molto grossi. Sì, problema per esempio stringente. Allora, parliamo un po' di cose economiche. Forchielli, ieri, due giorni fa, ha fatto un'intervista alla stampa a parlare appunto del fatto che ormai, che è una cosa che ha detto, no, già anche qua ai nostri microfoni, qua ci arrabattiamo per trovare 1 miliardo. Pare che abbiano raschiato il barile proprio i tecnici, no, lì al Ministero dell'Economia, così a raschiare il barile, hanno trovato 1 miliardo per rinviare di 3 mesi l'IVA, l'aumento, cioè siamo a questi livelli, Forchielli, a trovare 1 miliardo a scavare, quando oggi Alesina e Giavazzi sul Corriere prima pagina scrivono o si trovano 50 miliardi di tasse sul lavoro da cacciare subito, cioè da tagliare, o altrimenti siamo dritti nella strada in mano al fondo salva stati europei, così abbracciandolo, così, no, proprio persi giù, com'è, giù per le scale della cantina, Forchielli, questa è l'immagine. Rotolando giù. Sì, ormai siamo arrivati allo scantinato. No, il problema è che l'opinione pubblica è avversa a qualunque tipo di tasse ulteriore, perché il paese è ipertassato, quindi ci illudiamo che spendendo di più con lo sviluppo, il problema è che un paese indebitato come il nostro non può permettersi sviluppo. Al tempo stesso c'è tutta una lobby a favore dei consumi, capito? Per cui devo riprendere i consumi, ma anche lì, capito, riprendere i consumi vuol dire fare del deficit, e non è un paese come l'Italia non si riprende con una politica dei consumi. E come si riprende? Si riprende con una politica alla coreana anni 60 e 70, cioè? Ossia con una fortissima compressione di consumi e con un abbattimento straordinario degli oneri fiscali sul costo del lavoro, quindi rigirando tutto il paese su esportazione, investimento e retribuenti consumi. Quindi quando Alesina Giavazzi... Invece la rincorsa di un'opinione pubblica rincretinita, alla rincorsa dei sondaggi di 2 o 3 mesi, cerchiamo di illudere tutti che ci sarà una ripresa, che ci sarà qualcosa... Guai mai, che poi dopo sono 4 lire, capito? Ossia, gli italiani non hanno sono ancora lì che pensano ci sarà ripresa nel 2015, ma no ragazzi, non c'è niente senza sacrificio, capito? Questo non gli entra in testa nessuno. Ma quindi, Forchielli, quando Alesina e Giavazzi scrivono ci vogliono 50 miliardi da tagliare subito... Non dice da dove li prende. No, dice dice da dove li prende. Come da dove li prende? Dire, ci vogliono, ma no, ha detto tagliare subito tasse sul lavoro per 50 miliardi. Quello. Sì, ma per tagliare le tasse devi prendere i soldi da un'altra parte. Come fai a prenderli? Li prendi abbattendo i consumi. Capito? Ma neanche Giavazzi c'ha le palle di dirlo, capito? Perché lui deve continuare a scrivere. Io dopo questa affermazione sarò radiato, perché ormai radiato. Tutti sono bravi a dire tagliamo, ma quando tagli i soldi li prendi da qualche parte. No, ma io radiato ti dico da che l'unico vero grande sacrificio che questo paese può fare, che non è in grado di fare perché l'opinione pubblica non lo capisce, è una fortissima compressione dei consumi. Che adesso c'è la Confesercenti contro, la Concommercio contro, i sindacati contro, capito? Beh, i sindacati erano già contro, Forchietti. Il paese che va alla rovescia, capito? Tutti capaci di dire tagliamo, ma nessuno c'ha le palle di dire dove devono venire. Ho capito, soldi. Però Forchielli adesso ti faccio arrabbiare. Questo di governo Lettusconi, capito? Ha bisogno, la parte Sconi ha bisogno di far riprendere i consumi, se no la pubblicità... Mayday, a torre di controllo, capito? Ah, cioè il governo si porta dietro tutto. Il governo Lettusconi, soprattutto nella parte Sconi, Silvia Brasca dice quella che sui consumi. Silvia Brasca, non so, hai capito qua Forchielli, adesso l'abbiamo ripristinato. Non so, adesso verrà È un esperto di queste cose, adesso io non ricette purtroppo, io non le ho, non le so dare, faccio il pane in casa e basta. Ma penso che si andrà avanti a farlo anche per molto. Ma io aggiungo un tema, che questo da mani sul volante. Ieri c'è stata un'agenzia a Napoli, sabato sera c'è stato un controllo dei carabinieri sulla strada. Napoli, sono state 3 ore, 4 ore, sono state trovate 21 persone che non hanno mai neanche sostenuto l'esame della patente e 40 macchine senza assicurazione, in un solo controllo, in una sera, in una zona. Dove vuole andare un paese? Dove vuole andare un paese? Però Forchielli, la ricetta che hai dato, adesso così ti faccio arrabbiare, di buon mattino in Italia e di buon pomeriggio a Hong Kong, sembra un po' simile alla decrescita felice grillina. È la crescita. Un paese per crescere deve, come il nostro, deve investire e esportare. Non consumare, fare buchi di bilancio nelle partite correnti con l'estero e fare un debito del 130%. Ci vuole un cretino del primario dell'economia a capirlo. Solo che l'opinione pubblica ormai è così, si esce senza sacrifici, con la politica dello sviluppo, ormai c'è tutto un sistema così, che li rimbambisce, capito? Allora andiamo a sentire. No, ma è chiaro, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Non me ne frega niente. Cioè, tanto so che non piace, so che non va bene, quindi si andrà avanti in questo piccolo tran tran che non combineranno. Ma non ho capito da dove dovrebbero. No, ma non ho capito da dove dovrebbero. Inesorabile. Sì, certo, non ho capito da dove dovrebbero radiare Forchielli. Qui non verrà radiato mai. Intanto andiamo alle informazioni sul traffico, poi alla segreteria telefonica. 24 mattino. Ciao bello, senti, hai visto il Popolo della Libertà quanto ama Berlusconi? Ma ci credo che ama tanto Berlusconi, perché se cacca Sansone si porta dietro tutti i filistei. Questa notte ho fatto un incubo, gente che bruciava il Parlamento, ammazzava i politici. Poi stamattina ascolto e vedo le notizie del giorno e mi rendo conto che l'incubo lo sto vivendo quotidianamente. Forse quello era un sogno. caro Milan, l'episodio del ministro Josefa Idem a proposito dell'IMU è diffusissimo in tutta Italia, perché io sono convinto che il 10% delle cosiddette prime case sono le famose casette, la villetta al mare, in montagna, eccetera, che dove si è presa la residenza di comodo. Per il fatto che a nessuno interessa, a partire dai giornalisti, dai politici, perché tutti quanti sono interessati a questo fenomeno. Quindi forse anche lei, Milan, non mi manderà in onda questa mia telefonata, non lo so, non voglio essere cattivo, lo sai che io voglio bene. Ho trovato quest'aria di Tartaglia, dall'opera Le maschere di Pietro Mascagni, pensa un po'. Questo è il paese che, come una grande città, spende soldi più che non ha. Come finirà? Gente nuova fa gran baccano, ma i vecchi non mollano il timone. Tal che a destra o a sinistra mano, il bel paese è confusione. Carabinieri in gran quantità, ma i ladri sempre in sproporzione. Qua qualche pesciolino va in prigione, ma le balene in libertà. Bella, vero? È stata scritta tanto, tanto tempo fa. Tanto tempo fa, ma sembra molto, molto attuale. Allora, siamo con Silvia Brasca del TG della 7, con Alberto Forchielli, il presidente dell'Osservatorio Asia. Effettivamente, Silvia, oggi sarebbe un giorno decisivo per una persona, come hai detto tu, chissà a chi ti riferivi, Noi che ci guardiamo nell'ombelico, come dice Forchielli, oggi attendiamo come cronisti una sentenza di primo grado, Eccola lì. Il fatto che si attenda la sentenza qua, è vero che probabilmente oggi salta la Idem, per quella telefonata alla questura, anche solo per quello. Il caso Ruby. Sì, c'è da dire che Forchielli qua, la CNN e Al Jazeera sono in Italia ad attendere il caso Ruby. Oggi c'è Bungasconi, il primo grado di giudizio, quindi non è che proprio non frega niente a nessuno, Forchielli. No, quella roba lì piace, ma piace il pettegolezzo, non i risvolti politici. Vabbè, voglio dire, è l'episodio in sé che piace, ma piace la parte ludica, non il risvolto politico. E quale sarebbe questa parte ludica? Ormai Buga è un top seller, capito? È un top ten come attrazione sul pettegolezzo mondano. Madonna, quella gente lì, ma come no, Silvia Brasca? Cioè. Sì, lui è una categoria. Se non c'era Jazeera, non c'era CNN, per questa effettivamente sulla sentenza Mediaset già che era in appello CNN e Al Jazeera no. Qui, insomma, chissà perché, forse sì. Perché uno che sia ancora sulla scena politica, e poi il problema è questo qua, al di là della sentenza. Siamo privatizzato un paese, per cui così aspettiamo la sentenza, e questa è già l'enormità, è già questa. Aspettare una sentenza terzo grado, su alcune cose siamo militarizzati, non ci rendiamo neanche più conto. Beh, comunque una sentenza di primo grado, staremo a vedere. Lì a Hong Kong cosa diranno Forchielli dopo la sentenza di primo grado? Il mondo andrà avanti? Ma la sentenza è, cioè, la cosa vuol sapere se i lettori internazionali vogliono sapere se Bunga sapeva che era minorenne o no, queste robe qui. Poi si divertono a vedere le foto, queste cose qui, ma non certo i risvolti politici. No, non di Berlusconi, le foto immagino. Non gliene frega. Risvolti politici d'Italia non gliene frega niente a nessuno. Sì. Immagino che si interessa di vedere le foto, non di Berlusconi in questo caso. Sì, Ruby. Cioè, anche su History Channel hanno fatto una serie televisiva molto bella, di documentario. Fa vedere il sesso e politica, come il sesso influenza la politica, per cui c'è Kennedy, c'è il ministro Profumo, c'è la foto di Berlusconi, è un documentario serio, lo trovate

Oggi vince nettamente la stampa, barbecue, i segreti dei Master Chef, pagina 21, un'intera pagina della stampa. Roselina Salemi: sembra facile, sembra sempre uguale, ma la cucina alla brace ha i suoi trucchi e li sveliamo per voi con i consigli d'autore, i carciofi con l'olio, limone, la menta, come rosolare bene la carne e come mettere il sale e quando metterlo e se metterlo e attenzione al fuoco, perché il fuoco può sembrare tutto uguale ma improvvisare è diabolico. Siate semplici, la verdura, la freschezza, schezza dei prodotti, insomma tutto questo nei consigli barbecue, i segreti dei Master Chef, un'intera pagina della stampa, pagina 21, e il mio appello a dire, ma insomma colleghi della stampa, la carta costa, soprattutto di questi tempi, e dunque mi raccomando, però se volete un bel barbecue oggi sulla stampa ci sono tutti i consigli del caso. 24 mattino. Sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, oggi vogliamo tornare a parlare di finanziamento pubblico ai partiti. Serve tempo, così in sostanza nella Commissione Affari Costituzionali della Camera nei giorni scorsi si è deciso, è stato un po' l'atteggiamento della maggior parte dei partiti quando si è trattato di esaminare il disegno di legge del governo, quello che dovrebbe riformulare il sistema del finanziamento pubblico ai partiti, quello che ricordate qualche tempo fa anche un po' pomposamente forse era stato presentato come il disegno di legge che avrebbe cancellato definitivamente il finanziamento pubblico ai partiti. In realtà è un disegno di legge che anche ieri Enrico Letta, Premier, intervenuto da Lucia Annunziata, ha detto verrà approvato. È un disegno di legge che gradualmente porterà nel giro di 3 anni a sostituire il rimborso, l'attuale finanziamento ai partiti, con nuove misure come quella dell'8 per mille, eccetera, molto discusse. Però insomma per il momento fatica un po' ad andare avanti questo disegno di legge. Intanto guai a mettere in discussione il fatto che a luglio i partiti debbano incassare la prima tranche di quello che spetta loro in vista l'attuale legge in vigore, viste le ultime elezioni, la prima tranche di soldi che devono recuperare, e sono in totale 91.354.339 euro complessivi che verranno distribuiti, più o meno 9 milioni al PD, 7 milioni e mezzo al PDL. Il Movimento 5 Stelle dovrebbe prendere 8 milioni e mezzo, ma come sapete la posizione del Movimento 5 Stelle è quella di aver annunciato fin da subito che rinuncerà a questi soldi. È l'unico partito che ha detto pubblicamente rinunceremo a prendere questi soldi. Allora ne vogliamo discutere con Maurizio Bianconi, torna con noi il tesoriere del PDL, uno dei tesorieri. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Saluto anche Riccardo Fraccaro, che invece è un deputato del Movimento 5 Stelle, fa parte di la Commissione Affari Costituzionali alla Camera dove si discute del provvedimento. Buongiorno Fraccaro, benvenuto. 24 Buongiorno, grazie. Eccoci. Allora intanto Bianconi, guai a mettere in dubbio quella rata, cioè quella rata non si tocca, mi pare di capire. Possono fare come vogliono, l'hanno già fatto, quindi se decidono di non darla non la prendiamo. Guai, non ci sono guai, cioè, facciamo come mi dicono, ci adeguiamo a quello che dico. Però pare non ho nessuna, io non, noi non abbiamo nessuna difficoltà a non prenderla. Sì. Rimane il principio di fondo. Io devo fare un budget con dei soldi che devo riscuotere il 30 di luglio. Il 20 di luglio non, secondo me è iniquo per qualsiasi azienda, anche per un partito, che non me li diano. In più ho 210 persone da piano piano sistemare. E li sistemo anche sulla base della conoscenza dei denari che dovevo avere il 30 di luglio. Poi se non ce li vogliono dare faremo in un'altra maniera, no? Ma mi faccia capire, non vedo drammi, ecco. Lei dice sicuramente non vede drammi, però qualcosa, fare i conti con 7 milioni e mezzo che dovrebbero entrare nelle casse e poi potrebbero non entrare, potrebbe essere. E l'altra volta abbiamo fatto i conti con 14. Abbiamo disdettato tutte le sedi in tutta Italia, abbiamo disdettato tutti i fornitori in tutta Italia, abbiamo dilatato i 12 mesi i pagamenti e ce la siamo cavata. Io faccio l'avvocato che si cura anche nel privato di queste cose per i suoi clienti. Ho pensato che il PDL fosse un cliente che non aveva soldi, io ho cercato di accomodare le cose, mi faccia capire perché sui giornali è stata raccontata come, e adesso ci racconterà anche Fraccaro, una ostruzionismo da parte dei partiti tradizionali, perché questa rata vogliono cercare di averla per questi problemi che ci sta raccontando. Cioè, in realtà lei ci sta dicendo che c'è la possibilità ancora che questa rata di luglio non venga consegnata. A me pare inverosimile. Ricordate quello che è stato fatto l'anno scorso. L'anno scorso il provvedimento non era passato. Fu estrapolato il pezzettino del provvedimento che non ci dava i soldi alla data di luglio e passò quella parte, anzi li dimezzava del 50%, passò quella parte di provvedimento e il provvedimento è stato approvato dopo. La stessissima cosa si può fare questa volta, quindi non rispondi a verità che se non passa tutto il provvedimento ci danno la rata, perché l'anno scorso è successo diversamente. Basta, non dico andare alla storia del Parlamento, alla storia parlamentare italiana, basta andare indietro di 12 mesi e fare esattamente lo stesso lavoro che è stato fatto. Vabbè, allora lei lo vede in maniera settica, dice facciano come vogliono. Io lo vedo come forse un appiglio per molti cittadini a dire: Maurizio Bianconi ci sta dicendo che in realtà una strada ancora per bloccare questa rata c'è, basta che si faccia come l'anno scorso. Onorevole Fraccaro, lei pensa che questa rata in realtà verrà consegnata a luglio a tutti i partiti, tranne voi che non la ritirerete, oppure c'è ancora margine? È difficile pensare che venga ritirata. Fatto sta che noi abbiamo presentato una mozione, spero che venga calendarizzata al più presto, in cui si richiede l'eliminazione di questa rata al governo, perché è una rata di un'ipocrisia così evidente da essere ridicola. Voglio dire, il DDL del governo sull'eliminazione, sulla riforma dei contributi elettorali del finanziamento pubblico parla di abolizione del finanziamento pubblico. Quindi, cioè, anche il governo prende atto di una cosa che noi abbiamo sempre denunciato, cioè di 20 anni in cui i cittadini sono stati presi fondamentalmente in giro dopo il referendum del 93. Quindi si attesta che per 20 anni la volontà popolare non è stata mantenuta e rispettata. E si dice con questo DDL, ok, adesso iniziamo a cambiare le carte in tavola, a dare un po' più respiro e voce ai cittadini. Nel frattempo, siccome dobbiamo organizzarci, per fino al 2017 comunque i soldi pubblici ce li prendiamo. Infatti. Magari quest'anno ce li prendiamo tutti, l'anno prossimo un po' meno e così via. Però questo è importante. Però questo è importante da dire, Fraccaro. Mi scusi, questo disegno di legge non è che dice sospendiamo la rata da subito. È un provvedimento che dal 2000 arriva a regime, in teoria, a sostituire l'attuale legge nel 2017. Quindi, in virtù di questo, perché dovrebbe essere bloccata questa rata? Perché le definisce questa rata ipocrita? Diciamo, fino al 2017 rimane in vigore, piaccia o no, questa legge, la legge che c'è adesso. Perché? Perché con questa legge attuale comunque il finanziamento pubblico è previsto, finanziamento pubblico che i cittadini hanno detto di non volere con un referendum. E questo governo dice di voler rispettare finalmente la volontà dei cittadini del 93. Lo facciano da subito, lei dice. Lo facciano da subito, anche questo di luglio. Anche perché non solo è ipocrita perché appunto non rispetta la volontà dei cittadini, ma anche perché se ci troviamo in una situazione economica talmente grave che questi 91 miliardi che dovrebbero essere erogati nel 2013, quindi dopo ben 20 anni da quel famoso referendum del 93, sono dei soldi che dovrebbero andare in questo momento storico così drammatico a ben altri soggetti. Anche perché si parla che andranno proprio a quei partiti, scusi se l'ho interrotta, che in questi anni hanno preso i contributi pubblici anche per gli anni di legislazione che non hanno fatto. Questo è importante dirlo. In questi anni i partiti hanno preso il finanziamento pubblico sia per quegli anni di legislazione effettivamente svolti, ma anche per il residuo della legislazione non prestata. Sì, questo però fortunatamente credo sia stato cambiato, cioè laddove, sì, laddove la legislatura finiva prima dei 5 anni, prima si cumulavano, anche se una legislatura durava, che ne so, quella di Prodi è durata nel 2008, 2 anni, i partiti hanno preso soldi per 5 anni. Questo però, Bianconi, questo non c'è più, almeno, no? No, questo non c'è più. Ha detto un po' delle inesattezze il collega, perché ha sovrapposto due problemi. La dazione di questa rata non dipende da questa legge che è in discussione. No, ma no, dalla no, legge dalla che è in vigore. Certo, dalla legge in vigore, certo, questo è quello. Mentre la legge che no, è in però scusi Bianconi. Scusi Bianconi, che sia per la legge in vigore, l'ha detto anche Fraccaro, ma dice, visto che è stata fatta una legge dicendo rispettiamo la volontà del 93 degli italiani, allora dice rispettiamola da subito, togliamo non subito è anche questa. Esatto. Non è stata fatta una legge dicendo rispettiamo la volontà. Anche qui vanno precisate le cose, ma vedrà che non l'annoio per molto. Ci sono molti che dicono che il referendum del 93 non disse che si aboliva il non condivido questa tesi, ma io faccio per fare il ragionamento, che non si aboliva il finanziamento pubblico dei partiti, ma quel tipo di finanziamento. Fraccaro in commissione ha sentito il professore del PD come ce l'ha spiegata proprio bene. In realtà io penso che l'opinione pubblica ormai pretenda che ci sia l'abolizione del finanziamento pubblico. Sì, io Maurizio Bianconi. Credo di quindi sì. Io sono non sono contrarissimo a questo disegno di legge del governo, l'ho detto già, Fraccaro è testimone, lo dirò in un intervento più vasto. Il finanziamento pubblico va abolito, ma va abolito in ogni sua forma. Va abolito col 2 per 1000 di favore, va abolito con le dazioni indirette delle sedi, va abolito con l'accesso alla TV, va integralmente abolito, perché così vuole la gente. Dopodiché, se la democrazia riterrà opportuno ripristinarlo, ci penserà chi verrà dopo di noi. Noi dobbiamo prendere atto di questo. Secondo me è un errore molto grave, però noi non possiamo fatto che prendere atto che va abolito. Ma va abolito. Sì, però la senza... non fare no, le cose ma è chiaro, è chiaro. Alla democristiana. Che si dice una cosa e poi se ne fa un'altra. Sì, però Bianconi, lei dice, e io ne do atto, lei è sempre stato qui a dire sì, va bene, abbiamo fregato gli italiani nel 93, già ci disse una volta dicendo loro hanno votato questa cosa e poi la politica... Secondo me è stato disatteso, non è stato, abbiamo fregato nessuno. È stato disatteso, diciamo. È stato disatteso, però nel frattempo intanto i soldi un pochino le fa comodo che arrivano all'incasso. A me io non me li metto mica in tasca. Ma no, mica a lei personalmente, cioè a lei fa comodo, fa il tesoriere del partito... Io insieme a Crima abbiamo un partito che ha preso, mi pare 13, allora non adesso, 14 milioni di voti con 127 sedi regionali e con un sacco di impiegati. Li devo mantenere in qualche modo, ma se mi dicono che non li devo mantenere, noi non è mica che si è fatta una piega, abbiamo chiuso tutte le sedi, tutte. Sì. Non abbiamo rinnovato nessun contratto, né a progetto né a termine. Abbiamo ora i dipendenti fissi, vedremo come faremo con questi qui e cercheremo di salvarli diminuendo gli stipendi. Ci arrangiamo, non c'è problema. Ma ho capito, ma ci arrangiamo. Ma qua ha un rappresentante, da qui poi vorrò ripartire tra un attimo da pubblicità. Ha un rappresentante di quel Movimento 5 Stelle che dice: ma quali sedi, partiti? Noi facciamo tutto sul web, i meetup, la passione, ci si incontra e vedete come si può rinunciare ai 42 milioni che ci spetterebbero nei prossimi 5 anni. Bianconi, io glielo dico adesso, a volte glielo dicevo, mi scusi che sono dei matti, sono loro. I partiti, ognuno, mi scusi, se lo organizza come vuole. Se Fratelli d'Italia vogliono le sedi, se il PD vuole finanziare le marce della pace, se il PDL pensa che il consenso si ottenga attraverso i cocktail party, e se il Movimento 5 Stelle pensa che il consenso si ottenga attraverso il web, queste ognuno fa come vuole. Ma certo, è solo che la differenza è che ognuno lo fa come vuole. Ma non ci possono imporre un modello di partito. Ma certo, ognuno c'ha il suo. Però ognuno lo fa come vuole, ma i partiti tradizionali l'hanno fatto. Ecco, finora l'ha fatto a spese nostre, finora è stato così. Non le fa a spese nostre, le fa a spese della democrazia. Cioè loro non possono dire, siccome noi abbiamo un partito ottimo, voi dovete fare il nostro partito. No, ha detto il principio, fino adesso i partiti si sono mantenuti in eccesso, perché è un flusso di denaro incomprensibile. Io non me ne intendevo prima, quando sono arrivato ho trovato un flusso di denaro incomprensibile, cioè eccessivo rispetto ai bisogni, ma come si fa in Italia, da troppo a niente, questa è la mia opinione, sì, la trovo appagliente. Secondo me, anzi, detto che non lo finanzia più la democrazia, si autofinanzia con i soldi dei privati. Autofinanziamo. Comunque, autofinanziamo. Comunque, tra un attimo riparto dopo la pubblicità da Fraccaro, perché in realtà loro dicono, non credo che vogliano dire fate tutti come noi, ma dicano si può fare come facciamo noi, cioè si può fare anche senza soldi pubblici. Poi ognuno se lo organizzi come vuole, con i cocktail party, con i meetup, con le sedi pagate, ma un sistema, evidentemente gli italiani guardano e dicono ma evidentemente un modo c'è anche per prendere voti senza prendere soldi pubblici. 24 mattino. Siamo qui ancora alle 8:35 minuti, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Siamo con Maurizio Bianconi del Popolo della Libertà, Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle, al quale ha sentito, insomma, Fraccaro. Bianconi dice non è che siccome voi avete questo sistema noi altri partiti dobbiamo per forza conformarci a quello che dice il Movimento 5 Stelle. Ognuno il partito se lo organizza come vuole. Per la verità, dice Bianconi, io sono fautore del cancellare effettivamente il finanziamento pubblico ai partiti. Per ora non è così, Fraccaro. Sì, ha ragione Bianconi, ognuno si organizza come vuole, perfetto. Salvo poi vedere nel decreto del governo che in realtà sono loro a volere un partito strutturato secondo le loro indicazioni, con uno statuto, con delle sedi, che sono condizioni poi per accedere ai finanziamenti e alle agevolazioni che comunque sono previste anche nel nuovo decreto. E poi sappiamo benissimo che, poi magari entreremo nel merito in questo, su questo argomento, sappiamo benissimo che il vero problema del finanziamento pubblico non riguarda tanto il PDL, ma riguarda il PD, questo lo sappiamo noi del Movimento 5 Stelle, ma lo sa anche Bianconi del perché PDL. Perché hanno più sedi, hanno più... Sì, hanno meno capacità di raccogliere fondi e hanno più debiti, cioè loro nella campagna elettorale chiedono finanziamento alle banche, forti finanziamenti, hanno grossi debiti che poi devono ripianare, quindi la rata di luglio per il PD è fondamentale proprio perché non sanno più, non saprebbero più come pagare i debiti con le banche. Questo è un dato. Però lei non crede che cambiare effettivamente i bilanci si fanno a inizio anno, cioè uno a inizio anno dice so che a luglio mi arriveranno nel caso del PD 9 milioni di euro dopo le elezioni, questo è quello che spetta come prima tranche, e uno fa conto di averli. Se poi uno dice no all'ultimo non te li do, questo può creare un problema. È come se una famiglia di colpo gli si dice beh, i 10.000 euro che ti devono entrare a settembre, a giugno ti dico non te li darò più. Magari uno ha messo in previsione delle spese, ha messo in previsione delle cose, e questo cambia la situazione, non crede? Beh, non credo che sia paragonabile un partito a una famiglia, perché la famiglia subisce purtroppo le scelte governative e parlamentari. Il partito, in particolare PD e PDL, le fanno le scelte, cioè sono loro che dicono quanti soldi si dovranno prendere e poi se li intascano. C'è un conflitto di interessi diverso. Invece, hanno preventivato dei soldi che non avrebbero avuto il diritto di avere proprio per lo storico. Beh, lei dice per il diritto, per la volontà popolare espressa nel 93, sì, qui, che però è, vero, che però è stata aveva fatto una puntualizzazione corretta, cioè aveva detto non è stato imposto, non è stato fatto un referendum il cui risultato è gli italiani vogliono abolire non vogliono il finanziamento pubblico ai partiti. Perché? Perché in Italia purtroppo non c'è referendum propositivo, certo, ma c'è solo, certo, confermativo. Ora non possiamo utilizzare nemmeno questa scusa dell'assenza di uno strumento di partecipazione diretta, che sarebbe fondamentale in una democrazia, per poi dire il contrario di sì, tutto. Sì, fu abrogata. Dobbiamo quella fu abrogata quella legge lì, che potrebbe essere come interpretazione voler dire farne un'altra al posto di quella che gli italiani hanno voluto abrogare. Sì, io direi, se proprio vogliamo reintrodurlo il finanziamento pubblico, se la maggioranza volesse introdurlo, dovrebbe chiedere un referendum di indirizzo ai cittadini per correttezza istituzionale. Sentiamo due ascoltatori. Caterina dalla provincia di Como. Caterina, buongiorno. Buongiorno. Senta, io invece sono favorevole al finanziamento pubblico, ma con delle regole ferree. Eliminare tutti quei partitini che prendono soldi che poi non servono a niente, e perché altrimenti andrebbe in mano, come dice il signore lì che ha parlato adesso, praticamente sì. Il PDL ha più soldi. L'onorevole Fraccaro. E quindi, quindi gestisce infatti tutti i voti che prende. Però mi scusi Caterina, cosa vuol dire cancellare i partitini? Cioè, in che senso cancellare sì, i partitini? Perché uno si sveglia al mattino con tre persone e forma un altro partitino. Beh, però il finanziamento pubblico attualmente viene dato in base ai voti che uno prende. In base ai voti che prende. Se uno ne prende tanti è un partitone, se uno ne prende pochi magari non accede. Sì, però sono tutti partitini inutili, insomma, dovrebbero unirsi e fare qualcosa di più serio. Comunque lei è favorevole in linea di massima, anche se con regole ferre, a una forma di finanziamento della politica. Sentiamo, grazie Caterina. Andrea Siracusa, da Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho delle difficoltà a capire, vorrei che lor signori i tesorieri mi spiegassero com'è possibile l'incongruenza tra i partiti di oggigiorno, che dichiarano delle grossissime difficoltà a sbarcare il lunario con quel che gli passa lo Stato, e partiti che sono ormai defunti, vedi Alleanza Nazionale o Margherita, che tengono in cassa centinaia di milioni di euro. Dove sono finiti questi soldi? Dove li hanno spesi i partiti di oggi? Andrea, non so, Bianconi può rispondere per il PDL, però Bianconi dice effettivamente sentire... Sì, no, io posso rispondere per il PDL per AN. Per AN, beh certo. Perché io vengo da AN, quindi le cose le so, sia pure derelato, perché non svolgevo questa funzione che svolgevo a Pontone. L'Alleanza Nazionale aveva una rete di militanza che gli faceva sì di non avere praticamente impiegati. Cioè, mentre il PDL, cosa ho trovato io almeno, venendo in gran parte da Forza Italia, aveva una struttura organizzata proprio come un'azienda con tutti i funzionari, e proprio un'azienda vera che funziona, tra parentesi, e Alleanza Nazionale aveva pochissimi impiegati, perché erano tutti o i ragazzi o i funzionari o consiglieri comunali eccetera che lavoravano e gestivano il partito. Sì, quello come... quando c'erano. Però Andrea dice, ma quei soldi, visto che il partito è chiuso, così con la Margherita, sono risparmiati, hanno fatto una fondazione, nessuno se li ha rubati. Sono in una fondazione, se lo Stato gliele richiederà, gliele ridarà, sono soldi fuori circolazione. Ma come lo Stato? Non lo so. No, ma mi scusi, al di là che ci sono stati anche problemi. Ma che volevo dire, dottore, che è rimasto in sospeso, è quello della lunghezza del procedimento, che lei ha iniziato così e poi non è stato sviscerato il perché. Perché il perché non è per il finanziamento, il perché è per quello che ha detto Fraccaro prima. E cioè... questo disegno di legge è pericolosissimo, perché impone un partito sovietico per tutti. Impone un partito sovietico? Perché? Sì, per tutti, perché, e su questa ragione da vendere, io l'ho anche detto, perché per accedere, non dico ai finanziamenti, ma alle agevolazioni, il buon Quagliariello, e chi è che l'ha aiutato, vorrebbe che si facesse un partito che gli rendesse conto anche di quanta gente va al gabinetto la mattina e firmasse il ticket. Non è pensabile, ognuno si auto-organizza come vuole. Invece dice tutti i procedimenti. Ma questo questo sistema però ha creato, forse le dice da troppo a niente, perché visto quello che è successo prima, e cioè col rischio di un flusso di denaro incontrollabile, forse è meglio controllare anche chi va al gabinetto adesso, no? Lo fa come vuole, questo è il punto vero, perché abolire il finanziamento e farlo ci vuole un minuto, discutere di andare a toccare l'articolo 49 della Costituzione con una legge ordinaria in sede di finanziamento mi sembra una questione molto più grossa. Sì. Però cosa mi ha colpito Bianconi? Quando lei dice i soldi dei partiti invece defunti sono nelle fondazioni, se lo Stato li richiede forse glieli devono ridare. E mannaggia, se lo Stato glieli richiede glieli devono ridare. Chi non lo sa? Ma li sono risparmiati, capito? Capito, ma dovevano essere destinati a una cosa, non lo sono, e quindi se le donazioni degli immobili è diverso, perché mica puoi espropriare l'immobile, vengono dalla militanza, quindi quelle mica puoi espropriare l'immobile. Ma perché lo Stato? Cioè, lo Stato chi è che deve chiederglieli? Mi scusi, C'è Letta, lì glieli chieda. Letta, dice il governo, quindi politici non chiedono soldi a colleghi politici di partiti defunti. Il consiglio così attento agli annunci E faccia un bel annuncio, no, che capito, gli richiede i soldi. Questo, se è legale, se ritiene che sia legale per chiedere, io ritengo di no. Ah, non è legale. Però Fraccaro, questa... ci sono riuscito, volevo essere ironico, non ci sono riuscito. Fraccaro, le diamo questa idea. Voi lo sapevate nel Movimento 5 Stelle di questa cosa? Cioè ci sono dei soldi che i partiti defunti, partiti che non ci sono più, magari si sono inglobati con altri, hanno risparmiato, in teoria... Sì, anche la Margherita l'avevo fatto. Vabbè, anche... la Margherita ci sono stati anche dei problemi, diciamo... Sì, no, ma diciamo che poi loro i soldi li mettono nelle fondazioni, che è lo strumento principe per evadere ogni tipo di controllo. Ma ho capito, mi scusi, quindi... ma sono utilizzati quei soldi per il funzionamento del partito. Se questo partito non c'è più, che li ridiano indietro, almeno no, neanche questo, Fraccaro. Assolutamente, sì, ma se si potesse, se riuscisse a fare con l'appoggio di altre forze politiche, noi saremmo ben lieti di votarlo. Poi non è vero che il che lo Stato è eletta, lo Stato dovrebbe essere principalmente il Parlamento. Il Parlamento, sì, in teoria anche. Perché però siamo una democrazia parlamentare. Se Bianconi vuole farsi portavoce di un'esigenza anche del PDL di richiedere i soldi indietro, noi sottoscriveremo molto volentieri la proposta di legge. Non credo che lo faccia, anche non perché no, Bianconi dice per lui in realtà sarebbe illegittimo, illegittimo richiederli indietro, però sono opposizione. Allora sentirei Gennaro da Latina. Buongiorno Gennaro. Buongiorno. Senta, volevo chiederle soltanto una cosa. Come si spiega che per fare questa legge loro vogliono impiegare 3 anni e poi sempre se andrà in porto, mentre invece poi per quanto è stato per l'aumento delle pensioni che è stato bloccato di 500 euro al mese, cosa vergognosa, di pochi euro al mese hanno bloccato quello là, per gli esodati e subito, cioè in parole povere non hanno impiegato molto tempo per caro, cosa caro Gennaro, la risposta caro Gennaro ce l'ha lei nella domanda, cioè è perché per la tra molte virgolette per la povera gente, inteso come gente comune, i provvedimenti vengono presi nottetempo in 448 e lei invece dice caro Gennaro per lor signori invece no, questo è il senso del suo intervento o no? Diciamo pure che praticamente ci sono dei soldi che potrebbero ritornare indietro, ma questa gente non si vergogna, ma sa per quale motivo loro non vogliono fare il finanziamento pubblico? Perché sia pur certo, io soldi non ne ho, ma se lei avesse necessità io farei di tutto per aiutarla, ma quella gente che sta là, che mangia a spese nostre, non solo mangia, a buon intenditore, poche parole, fa anche azioni sporche, con i nostri soldi, ma si rende conto? Ma sta gente che crede che per quanto tempo ancora potrà andare avanti? A me mi dispiace, io purtroppo ho detto 67 ma ho 68 anni, ma se fossi giovane, se io fossi giovane i tempi andati, sa da quanto tempo avrei cercato di fare qualcosa? Questa gente, c'è tanta gente per bene, questa è quella che ci consola, ma questa gente rimane nell'ombra purtroppo. Va bene. Gennaro, la ringrazio, insomma Bianconi, questo è un po' l'atteggiamento come sa. Dottore, io non mi vergogno di fare politica. Sì, ma questo lei l'ha già detto tante volte. Con passione da però Bianconi, aspetti, mi risponda a questa domanda, poi sì. Questo lo so. Allora, lei ha detto, è vero, ognuno si organizza il partito come vuole, sì, ma certo. Se un italiano vede, abbiamo di fronte, per esempio, in questo caso oggi lei, tesoriere del PDL, e un rappresentante di un partito che invece dice, noi vi diciamo che si può fare anche politica senza chiedere soldi allo Stato. Perché uno dovrebbe pensare che tra le due soluzioni la vostra sia quella più efficace, Bianconi? No, io non dico mica, non ho mica detto... Cioè guardare più simpatia alla vostra. Che la mia è... No, io vedi dottore, io non vorrei essere frainteso, io sono favorevole in via generale al finanziamento pubblico dei partiti, perché il finanziamento pubblico dei partiti, come l'indennità ai parlamentari, ha consentito e consente anche a chi non ha denari di fare politica e di agire in condizioni di parità. Questo è l'assetto costituzionale. Dopodiché, come è stata gestita la questione, è un'altra faccenda. Quindi, in via di principio, il finanziamento pubblico ai partiti e l'indennità ai parlamentari è un atto di democrazia. Poi c'è le gestioni delle cose, ma questo è. oggi, così stando le cose e sentendo la gente, questo bravo signore che parlava e offendeva senza volere anche gente come me, che penso di non meritarlo, perché poi quando si fa di tutto nell'erba un fascio si finisce anche per pigliare l'innocente per il colpevole, vuole diversamente, facciamola diversamente e finanziamoli privatamente. E io sono d'accordo, ma privatamente, non come dice questo disegno di legge che fa finta di fare la cosa e non e la fa. E poi in realtà con l'otto per mille. Solo, ma costringe il partito ad avere un'organizzazione ferrea, assoluta, brutale, di tipo stalinista, al quale il mio partito io non la soggetterei mai, come giustamente il collega di 5 Stelle. Ma senta, quindi, Bianconi, invece che è successo in Commissione Affari Costituzionali? È vero che leggevo sui giornali che una deputata renziana del PD ha detto... Sì, si è comportata non bene. No, perché? No, ha detto cancellate lei, tutto e lei l'ha zittita brutalmente, dice. No, io non l'ho zittita brutalmente. La Boschi, che è una conterranea, sì, fra parentesi, l'onorevole Boschi, ha detto no, ma che non si può aspettare un mese di più. La gente vuole che la rata non venga data. E io ho detto guarda Boschi, che se è per i soldi, questa legge si fa in 48 ore. Anzi, se la voleste fare come la faccio io, i finanziamenti pubblici sono aboliti e per i finanziamenti privati l'esenzione delle tasse è per la più bassa che sono previste, non so quella che è la più bassa, se non la più alta, la più bassa, è finita. Il problema è che questa legge coinvolge l'organizzazione dei partiti. Sì. Surrettiziamente con questa legge si cerca di rifare il partito come lo vuole non si sa bene chi. Sì, sì. Stalin, ha già detto Stalin. E va a incidere sull'articolo 49 della Costituzione e lo dice, perché all'articolo 2,2 per essere precisi, dice che questa legge ha potere estensivo e interpretativo dell'articolo 49 della Costituzione. Ma è chiaro, allora che all'esame di diritto costituzionale verrebbe bocciata. Oh mannaggia, no, non mi dica che poi nel caso ci sarebbe un ricorso alla Corte Costituzionale che annulla tutto, che è molto italiano. Io faccio una battuta perché molti mi scrivono ma che qualunquismo, anche in Francia, in Gran Bretagna, in Germania c'è il finanziamento pubblico ai partiti. C'è una piccola differenza tra la Germania e l'Italia, che là sono tedeschi. Ecco, questa è la mia battuta. C'è una piccola differenza in queste cose sull'etica pubblica tra la Francia e l'Italia, che là ci stanno i francesi e qua gli italiani. Non so se l'onorevole Fraccaro, lei adesso non vorrei entrare in questa analisi antropologica, insomma, ma... non entriamo nella analisi antropologica. Vorrei fare due osservazioni, se possibile. Certo, dica. La prima è, ma si rende conto della situazione in cui ci troviamo? Cioè, soprattutto in affari costituzionali, noi dobbiamo discutere un disegno di legge governativo, in particolare che il ministro Quagliariello ha definito più grillino dei grillini, che è contestato dalla stessa maggioranza che lo supporta. Questa è una cosa che succede spesso e a me lascia molto perplesso. Ma si sa, Bianconi è uno che non le manda a dire. In affari costituzionali le posizioni sono anche da parte del PD, dei renziani, dello stesso PDL, completamente diverse dal tenore letterale di questo decreto legge. Prima cosa. La seconda è che questa proposta del governo ha degli aspetti, oltre all'articolo 49, citato da Bianconi, e per la quale io ritengo un disegno di legge incostituzionale, quindi concordo con Bianconi in questo senso, degli altri aspetti drammatici. Per esempio, l'altro aspetto veramente triste è che prevede delle detrazioni fiscali per le donazioni liberali, cioè per le donazioni ben più alte di quelle che sono previste per altre. È chiaro, italiano per altri. Certo. Cioè, addirittura, se uno manda un bambino a scuola, all'asilo nido, avrà una detrazione inferiore rispetto a dare 600 euro anziché l'asilo ai partiti. No, ma su questo è sempre stato detto. Scandalose, è stato detto anche dai giornali. Uno vuol fare una donazione a un'associazione che fa qualcosa di meritorio, che ne so, la lotta al cancro, e ha una detrazione magari del 15%. La fa ai partiti e arriva a detrazioni anche al 25, al 30 e se non di più nelle proposte di legge. Ma perché sennò non gli danno i soldi, capisce Fraccaro? Perché sennò nessuno dà soldi ai partiti. Questa è un po'. In realtà non danno soldi, grandi quantitativi di soldi, ma il cittadino medio, se crede in un progetto politico, quindi lo devi convincere della bontà delle tue affermazioni, pochi ma soldi te li dà un euro, 10 euro, 20 euro. Ma con un euro, 10 euro. Cosa vuol fare? Noi così ci siamo, e noi così ci siamo. No, lo so, ma infatti, però. Poi un'altra cosa, se mi. Ho 10 secondi, però. 10 secondi. Sì. Qui non si parla di togliere i soldi pubblici allo scontro democratico, perché in realtà noi nel Movimento 5 Stelle prendiamo dei soldi, come prendono anche PD, PDL e gli altri partiti, per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Va bene, si fermi qui, altrimenti sforo. Vi ringrazio, Maurizio Bianconi del Popolo della Libertà, Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle. Riascoltate tutto su radio24.it e ci troviamo domani alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.